einem Brennglas. Also get it from GPS. Crisis on Wall Street. Der Wojnaya. Tabu ist ein Problem. The time for bickering is over. Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network. Sommario della puntata. Messico, Ciudad Juárez, un libro a fumetti contro la violenza. L'intervista agli esteri. In Brasile, come avete sentito, le università sono al fiore all'occhiello, mentre per un altro paese sfortunato, il Messico, c'è la zavorra per la sua ripresa, c'è la zavorra dei narcos, quindi della mafia. E la città emblematica di questa situazione è Ciudad Juárez, che tante volte abbiamo raccontato perché erano successi, soprattutto qualche anno fa, alcune tragedie, diciamo, che comunque hanno sconfinato. C'è stato anche un film su quello che succedeva a Ciudad Juárez, un film sul massacro di centinaia di ragazze. Ebbene, per fare uscire dal dimenticatoio, per fare uscire, diciamo così, dal silenzio questa tragedia, è stato pubblicato un libro a fumetti realizzato da artisti francesi contro la violenza e soprattutto per una Ciudad Juárez che un giorno può sognare. E abbiamo realizzato l'intervista di Esteri, e tutto questo a cura di Eleonora Brianzoli. Ciudad Juárez è diventata famosa nel 2001 quando Marisela Ortiz Rivera ha avuto il coraggio di denunciare per la prima volta la scomparsa di una sua studentessa e ha fatto venire alla luce la tragedia di centinaia e centinaia di giovani donne che venivano sequestrate, violentate e uccise nel silenzio delle istituzioni. 10 anni dopo, poco è cambiato. Le organizzazioni criminali sono infiltrate nei palazzi del potere, corrompono giudici, magistrati e ufficiali di polizia. Ma Ciudad Juárez, la città simbolo della mattanza messicana, la gente sogna ancora. L'ha scoperto Edmond Baudouin, che è andato proprio a Ciudad Juárez per realizzare il suo ultimo libro a fumetti, Viva la Vida, scritto insieme a Jean-Marc Troubé. Nous sommes allés au Mexique en 2010. Siamo andati in Messico nell'ottobre e novembre del 2010 per scrivere questo libro. Siamo stati a Ciudad Juárez, la città alla frontiera con El Paso, negli Stati Uniti. Si dice che sia la città più pericolosa del mondo. Abbiamo vissuto là 2 mesi per fare un libro non sulla morte ma sulla vita. Per fare questo libro noi siamo andati in strada, abbiamo incontrato la gente, abbiamo parlato con la gente. Scambiavo con loro i loro ritratti con i sogni. Disegnavo il loro ritratto e glielo davo e in cambio loro mi raccontavano i loro sogni, sogni di vita, non di morte. Prima di regalarglielo facevo una foto al ritratto per poterlo ricopiare la sera nel libro. Così abbiamo fatto un libro sui sogni delle persone di questa città. E quali sono i loro sogni? Sono sogni di vita, sogni per i loro figli che possano andare a scuola, ed è il sogno di avere un lavoro oggi. Sono sogni semplici, gli stessi sogni di tutta l'umanità. Ma a differenza della gente del resto del mondo, sognano molto più spesso la pace e sognano di poter fuggire, di lasciare Ciudad Juárez. E poi il y en a qui rêve de s'échapper de Ciudad Juárez, de partir de cette ville. Voilà. Baudouin era già stato altre volte in Messico e conosce bene quel paese, ma ha scelto di vivere a Ciudad Juárez per 2 mesi perché pensa che questa città di confine possa raccontarci qualcosa su come si vive anche nel resto del mondo. E le gens de Ciudad Juárez pensano che leur ville c'est un peu comme un laboratoire. Le persone di Ciudad Juárez pensano che la loro città sia una specie di laboratorio. Oggi la gente parla molto di più del crimine organizzato rispetto a 2 anni fa. In tutto il Messico, a Cuernavaca, a Puebla. Perché adesso non si muore più solo a Ciudad Juárez. Adesso in tutte le città messicane si muore a causa del narcotraffico. Quindi la gente è molto più esasperata. Però ha anche molta più paura. Coesistono queste due cose. Le persone sono sempre più esasperate. Ma la paura ha conquistato tutte le città. Una volta ero in un hotel e la gente, i messicani, mi parlavano delle loro paure. Bisogna fare attenzione ai bambini, non si può più uscire alla sera, eccetera, eccetera. Dopo aver passato un po' di tempo a vivere in un paese in guerra o in una città come Ciudad Juárez, non ci si rende nemmeno più conto di vivere sempre con la paura addosso. ma io credo che in molti paesi si viva nella paura. La paura è un sistema che usano tutti i governi. A Ciudad Juárez è solo più evidente. Avec la peur d'Juárez, c'est plus évident, c'est tout. Viva la vida di Baudouin et Troubs, 144 pagine, 16 euro, è pubblicato in Spagna da Stiberri. Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network. Intervista di Esteri, grazie a Eleonora Brianzoli.